Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que... Pasto discum donna. Pusimos toda música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole musica dell'America Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para adornar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol, tu pincho de vi, dalle 17, 87 y 9 de Radio Onda Rossa. Pueblo se tiene que unir para luchar. Para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Todos los jueves a las 17, La Esquina del Sur, Tutti Frecuencia y Radio Onda Rosa. Toi t'es qui, moi? N'oublie pas qu'avant toi, il y en a d'autres que toi. Et qu'après toi, crois-moi, Il y en aura. T'es qui toi, t'es qui moi. T'es pas qui, t'es pas quoi. T'es qui toi, t'es qui moi. Mais toi, t'es qui, t'es quoi. Il y en aura de la bavure et décollé au mur. Et dans ce tas d'ordures, Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi. Y aura-t-il les langues de bois. Des ailes en tout cas, y en aura. Qui couille, y'en aura pas. T'es qui toi, t'es qui moi. T'es pas qui, t'es pas quoi. T'es qui toi, t'es qui moi. Mais toi, t'es qui, t'es quoi. Eh sì, sicuramente non è cumbia. Ma un piccolo omaggio che voglio fare a un artista scomparso troppo presto, Rachid Taha. C'était qu'une fois où ça ne finira. Mais tout ça, c'est entre toi et moi. Toi t'es qui moi. T'es pas qui t'es pas quoi. T'es qui toi t'es qui moi. Mais toi t'es qui t'es quoi. N'oublie pas qu'avant toi il y en a d'autres que toi. Et qu'après toi crois-moi. Il y en aura. T'es qui toi mais t'es qui moi. Si t'es pas moi dis-moi t'es qui. T'es qui dis-moi si t'es pas toi. Si t'es pas moi dis-moi t'es qui. allora, come vi dicevo, insomma, approfitto per questo inizio trasmissione per rendere omaggio a, così, a questa musica Rai, a un grandissimo artista che ha mischiato la musica Rai con il rock, uno dei pochi che è riuscito forse a rompere un po' quella colonia bianca, anche ogni tanto, che riesce a essere il rock e invece a portare questa bellissima contaminazione. Neanche 60 anni sicuramente non si è fatto mancare niente, ognuno decise per sé. E allora abbiamo perso un altro grande artista di cui però ero contenta di ricordare un po', e invece entriamo nel pieno di questa trasmissione che, come vi ho detto, metterà la musica un po' da parte, per quanto invece cercheremo di continuare a metterla in sottofondo, a farci sicuramente accompagnare per quanto possa rispecchiare i nostri sentimenti di grande arrabbiatura nella puntata di oggi, perché credo che sia passata la notizia anche per questa radio, come avete sentito, esattamente credo 48 ore fa circa, a sorpresa viene prelevato Facundo Cionesuala, prima dai suoi, nei giorni scorsi, dagli arresti domiciliari, ne abbiamo già parlato, al carcere, e già qualcosa lasciava supponere che stesse succedendo qualcosa di quantomeno losco a cui eravamo preparati solo in parte, ovvero il suo trasferimento poi dal carcere fino a Valdivia, da Valdivia poi a, appunto, alla Argentina, dove ormai è arrivato Facundo Cionesuala. Quindi che vuol dire questo? Che la sua estradizione è stata messa in atto, nonostante, ma poi adesso metteremo un po' di musica, ma capiremo perché tutti i personaggi, compresa la, diciamo, la parte dei diritti umani, la Commissione dei diritti umani dell'ONU, che avevano appunto condannato questa richiesta di estradizione, non sono stati ascoltati con molta semplicità. Chi c'è oggi alla presidenza della Commissione dei diritti umani dell'ONU? Niente po' di meno che Michelle Bachelet, ex presidenta del Cile, colei che comunque ha fatto sì che questa richiesta partisse e che quindi il Cile richiedesse l'estradizione. Non la riteniamo quindi una donna con le mani pulite, tantomeno una rispettosa dei diritti umani, tantomeno l'ONU ci ha mai rappresentato, ne abbiamo parlato tanto. Ma allora, io, per aprire questa parentesi, per cominciare ad avere anche un po' una base su cui raccontarvi nello specifico quello che è successo, per poi chiamare, come sapete, la mia compagna Geraldine, la nostra compagna Geraldine della Nodo, diciamo, del collettivo, scusate, milanese, della Rete in Difesa del Popolo Mapuche, per appunto commentarla insieme. Allora, intanto io direi che ci sentiamo una cumbia rap dalla voce del Luanco, un grande compagno cantante mapuche, il sapore della terra, una cumbia rap che non manca mai. Inchieta al Luanco. Cumbia rap, cumbia rap. Vamos como aguila. Y si quieren que fue, ponele merengue. Sabor de la tierra que siempre nutre mis ganas. Tostando trigo en la ruca y en la cayana, labor cotidiana que trae harina tostada. Póngale. Una vida sana, el olor me llama, aflora ese sabor que te atesora en mi mente y corazón lo valora. Olor y comida, mi mejor doctora, tortilla de recuerdo me enamora. Por mi gente trabajadora, prendo como un tai jugo que se elabora. Tengo el Mapu tierra defensora, de la Mapu Ñuque gente luchadora. Oler su merquén ahumado me transporta a otro lado, y su cazuela de campo me conecta con mi ancestro, me conecta con mi gente. Oler su merquén ahumado me transporta a otro lado, y su cazuela de campo me conecta con mi ancestra, me conecta con mi gente. Cumbia rap de la tierra. El sabor de la tierra es más que gourmet, no huende la mapu que te hace bien. El sabor de la tierra es como el merguén, no huende la mapu que te hace bien. Entienda, no se encuentra en la tienda, se encuentra en la puerta y en la ofrenda. Sabor de la tierra se cultiva con amor, así que póngale color. Changue ni lío di hueñe, si no lo conoce que alguien te enseñe. Changue ni lío di hueñe, si no lo conoce que alguien te enseñe. me transporta a otro lado. Y su cazuela de campo me conecta con mi ancestra, me conecta con mi gente. Esa porque me llena como luna llena. Entre los problemas quita la pena. La tierra tiene su condimento para alimentar su sentimiento. Changle mi yo di hueñe, si no lo conoce que alguien te enseñe. Changle mi yo di hueñe, si no lo conoce. Oler su merken ahumado me transporta a otro lado. Y su cazuela de campo me conecta con mi ancestro, me conecta con mi gente. Oler su merken ahumado me transporta a otro lado. Y su cazuela de campo me conecta con mi ancestra, me conecta con mi gente. Mari Mari, compu che, compu lamien, compu wenui. Inche iguala María Isabel Pinguén. Esto es urgente. Se llevaron a Facundo, al lonco Facundo Jones Walla, en helicóptero hasta Mendoza, y de Mendoza lo llevan en avión a Santiago de Chile. Están cumpliendo la extradición. Movilizarse a las embajadas, a la cancillería, a todos los lugares que se pueda, para ver si se puede evitar esta extradición. Es urgente. También hay que llamar a la gente de afuera del exterior a que se concentren en los consulados chilenos y argentinos en lo posible, y bueno, y a escrachar a Macri y al Estado chileno, bueno, por todos los derechos que fueron vulnerados, ¿no? En este momento que ni siquiera se le avisó a la abogada. Va a seguir saliendo información en la red, que la gente sostenga la información de la red. Esatto, e allora che dire? Sarebbe bello poter non dover dire niente, poter parlare di diritti rispettati, di democrazie, così come questi paesi, perché il Cile e l'Argentina, lo sappiamo, vanno a braccetto, piuttosto che invece di continuare a parlare di popolazioni indigene che difendono il territorio per poter tornare semplicemente alla vita che hanno fatto. E allora, chi riteniamo colpevole dell'attuazione di questa estradizione? Beh, insomma, la richiesta venne fatta dalla presidenza di Michelle Bachelet, inutile dirlo, sotto richiesta di un Macri appena eletto, che appunto chiedeva alla presidenta Bachelet di inoltrare questa richiesta di estradizione al lonco Facundo Jones Walla, che già si vedeva però agli arresti da più di un anno senza sapere perché. Una richiesta di estradizione, ne abbiamo parlato tantissime volte, illegale, visto che già per una volta era stata richiesta e poi non concessa, in quanto non c'erano gli estremi per estradarlo. I reati non sono cambiati, sono sempre quelli. Facundo non poteva commetterne altri perché il tempo da quella richiesta a oggi erano stati praticamente più quelli della detenzione che quelli della propria libertà. Facundo, lo ricordiamo, viene prelevato durante un rituale mapuche, viene arrestato durante un controllo di routine, viene prelevato e portato in prigione. Lì inizia una storia molto complessa che riguarda Santiago Maldonado, che va a manifestare per la liberazione dell'arresto di Facundo Jones Walla, che dopo un anno si capirà che è per la richiesta di estradizione, per tutta una serie di processi secondari, quindi comunque una detenzione ancora una volta illegale. E soprattutto partono una serie di collegamenti. Appunto, la prima è la triste storia di Santiago Maldonado, di cui vi abbiamo parlato tanto. Santiago dunque va a manifestare contro l'arresto di Facundo Jones Walla, lonco del Pool of in Resistenza di Cushamen, e quindi appunto autorità spirituale, quindi un personaggio importante, una rappresentanza importante per la sua comunità. Un'autorità importante, anche se, come vi diciamo, quando parliamo di autorità rispetto al popolo mapuche non si parla mai di una vera autorità come la intendiamo, ma delle capacità di una persona e quindi delle sue capacità di fare. E quindi il lonco viene arrestato durante questa manifestazione per il suo arresto. Scompare Santiago Maldonado dopo più di un anno, dopo qualche, insomma, parecchi mesi, più di 70 giorni di disapparizione. Riappare il corpo di Santiago e la comunità si vede accusata della sua sparizione, come se veramente fossero i diretti colpevoli, cosa che ormai, insomma, abbiamo svelato essere cosa non vera. Intanto cambia anche la presidenza del Cile e arriva Sebastián Piñera, sicuramente più a destra di una Bachelet socialdemocratica che sicuramente non ci ha mai incantato per i suoi atteggiamenti, nulla ha fatto per una democratizzazione di un Cile che di democratico, come abbiamo visto, ha ancora ben poco. E quest'audio che vi ho fatto sentire ci arrivava proprio quando qui, attoniti, anche se non era sicuramente la prima volta, vedevamo come lo Stato cileno trattava la memoria dei desaparecidos. Non è sicuramente la prima volta che i memoriali al cimitero o le manifestazioni vengono caricate dalla polizia quasi a voler cancellare una memoria scomoda, quasi a volerla negare, perché è un po' quello che sta succedendo in Cile, poi lo chiederemo anche a Geraldine, rispetto a una sorta di revisionismo storico riguardo alla dittatura. Beh, se questo sta succedendo in Cile, non che in Argentina non accada, Macri ha già cercato di sminuire i numeri dei desaparecidos argentini, sicuramente questa manovra storica, Mariano, credo che in Argentina sia palpabile oltre che in Cile, no? Sì, il caso di Cile è più palese ancora perché loro, diciamo, hanno una eredità più pesante. La transizione verso la democrazia in Cile è stata molto diversa dall'Argentina. L'Argentina almeno ha avuto la possibilità di giustamente cominciare e arrivare alla fine con un processo democratico, civile, contro i dittatori. Invece in Cile è rimasta veramente una cultura pinochetista molto forte. Per giustamente tornare indietro sui passi fatti è venuto Macri, come dicevi tu, mettendo in dubbio, in questionamento quello che è la cifra ufficiale, riconosciuta e simbolo dei desaparecidos in Argentina, e quindi mettendo in discussione soltanto un numero ma non quello che rappresenta. Per esempio, ti aggiungo un'informazione, adesso sarà il presidente di Cassazione a livello nazionale in Argentina, quello che noi chiamiamo la Corte Suprema, un uomo che Macri aveva voluto nominare lì attraverso il decreto. Stiamo parlando del presidente di Cassazione Nazionale, Macri aveva voluto nominarlo, metterlo lì attraverso un decreto, alla fine è arrivato tra altre forme, però questo uomo è quello che giustamente aveva votato il 2-1, no? Che si chiama, ossia condannare, diminuire la condanna a tutti i repressori in Argentina. Quindi anche sì, la situazione culturale in Argentina sta andando verso da quelle parti, per fortuna, credo io, per le storie diverse che ci abbiamo rispetto al Cile. Ovviamente loro faranno più fatica, insisto, nel Cile purtroppo, e lo potremo parlare con Geraldine, la cultura pinochetista non se n'è andata mai. Ricordiamoci una cosa, Pinochet esce dalla dittatura come senatore a vita. Esatto, per farci un'idea, il paragone più vicino sarebbe la transizione democratica che ha avuto la Spagna, per esempio, esatto, con esatto, tutti i franchisti che uguale hanno ovviamente tenuto, diciamo, il loro posto. E questa sì la situazione, non si poteva aspettare un'altra cosa di questa giustizia argentina, da una parte lo Stato cileno che richiede l'estradizione, da un'altra parte la giustizia argentina e Macri, perché Macri ancora ci aveva la possibilità, no, diciamo, di tornare indietro questa decisione della Corte Suprema di Cassazione. Ovviamente ha deciso di non fare nulla e così è stato estraditato Facundo Yanes Wallace, come anche dicevi tu, senza rispettare il più minimo diritto, voglio dire, non si è fatto sapere alla sua famiglia, meno ancora alla sua avvocata e così via. E tra l'altro, insomma, appunto, come dicevamo, appunto, la Michelle Bachelet niente ha fatto perché appunto si potesse mettere mano, per esempio, alla legge antiterrorismo, uno scempio per un paese democratico, motivo per cui, insomma, pensiamo che adesso la detenzione di Facundo in Cile sarà indubbiamente più pesante. Per tutto quello che possiamo dire dell'Argentina, insomma, avete sentito, noi abbiamo potuto raggiungere Facundo in carcere, abbiamo potuto permetterci di fargli un'intervista, di parlare con lui al telefono, tutte queste cose in Cile, come un po' qua, sono inimmaginabili, ma probabilmente il Lonco vedrà subito inserito in quella legge antiterrorismo che vedrà i tempi della sua carcerazione assolutamente più lunghi. Questo perché, torniamo a ricordarlo, cosa prevede la legge antiterrorismo? La legge antiterrorismo prevede intanto un arresto preventivo, cioè io vengono a casa, fate conto, vi faccio degli esempi pratici, vengono le guardie a casa mia e mi prelevano perché io vengo condannata, sono accusata di terrorismo, un reato generico. Posso stare agli arresti domiciliari anche 2 anni in attesa che mi vengano date le motivazioni di questo reato e che venga messo su, diciamo, ci sia le prove, il percorso per un processo giuridico. La legge antiterrorismo, oltre 2 anni di carcere preventivo, prevede per esempio dei testimoni incappucciati. che insomma, voglio dire, se potevano essere adatti a una dittatura come quella pinochettiana, che era un continuo mascherare crimini allucinanti, ci sembra abbastanza uno scandalo che questo possa esistere ancora in quello che Piñera definisce uno Stato democratico e di diritto. Insieme a questo, appunto, poi ci sono tutta un'altra serie di richieste di cui l'ONCO non si potrà avvalere, non essendo i suoi degli arresti domiciliari, perché non può chiedere gli arresti domiciliari essendo avendo dei documenti dello Stato argentino, e quindi insomma si vedrà costretto a una carcerazione molto più dura e probabilmente a un processo ancora più montato, perché se in Argentina questo non si può fare, pensiamo in Cile invece cosa può succedere, la misura in cui si può costruire una struttura di un processo assolutamente sul nulla, nel senso che chiunque si può incappucciare, dire che mi ha visto uccidere Pasqualino e diventa un testimone credibile contro la mia voce, e quindi la mia difesa probabilmente sarà nulla. Questo è quello che in effetti sta succedendo, per non parlare poi del fatto che sicuramente per i compagni Mapuche, per cui non sono facili gli spostamenti, intanto stiamo parlando di distanze assolutamente lunari rispetto a quelle a cui siamo abituati tra il Cile e l'Argentina, che insomma sono stati, anche solo viaggiare all'interno di quegli stati sono chilometri e chilometri, per noi abbastanza inimmaginabili, distanze infinitamente più grandi. E soprattutto potete pensare cosa può ricevere di permessi, di visti o alla frontiera come trattamento un o una Mapuche che cerca di andare a visitare il Lonco. Sicuramente questa volta la solidarietà delle comunità cilene non farà i saldi, sicuramente nel portare la propria il proprio sostegno, perché abbiamo visto la determinazione del Lonco, che è esattamente l'esempio di quella che è la determinazione poi di tutti e tutti i comuneros, le comuneros, i compagni e le compagne Mapuche. Quello che vorrei farvi notare è che appunto c'è questo trio che è dunque Macri, che appunto la Michelle Bachelet da presidente fa partire la richiesta di estradizione, cambia mentre appunto sale la presidenza Macri, quindi Macri e Bachelet a braccetto decidono di mettersi d'accordo sulla richiesta dell'estradizione. Intanto cambia la presidenza in Cile, sale Piñera, all'ONU viene eletta la Michelle Bachelet come presidente della Commissione per i diritti umani, e guarda caso, per non sporcarsi le mani, l'ONU fa questa farsa, perché tante volte abbiamo parlato di come le commissioni di diritti umani, Amnesty International, Human Rights Watch, tutti questi grandi nomi hanno sanzionato questi paesi, e quanto questi paesi poi se ne siano abbastanza sbattuti, no? Di queste penalità che poi nella realtà si risolvono al nulla, insomma, anche perché nessuno assolutamente controlla o gestisce, o sono sanzioni che poi nella realtà diventano effettive. Motivo per cui appunto diciamo che per quanto poteva essere valida questa richiesta di annullamento, perché illegale la richiesta di estradizione, diciamo che la presidente prima la fa partire quando si trova presidente del Cile e poi ne dichiara l'illegalità quando è presidentessa della Commissione ONU, probabilmente perché già sapeva che era fuffa questa cosa delle Nazioni Unite, tant'è vero che per essere valida doveva essere controfirmata da Macri, che si sarebbe dovuto inchinare alla richiesta dell'ONU. Credo che non sappia farlo neanche davanti a sua madre, cioè credo che sia proprio, per come è spocchioso che l'uomo, credo che non si inchinerebbe se non davanti al deposito delle monete d'oro di Paperon dei Paperoni, forse. E quindi chiaramente Macri se n'è altamente fregato e in 4 e 4-8 ha firmato la sua estradizione. Un Lonco che sicuramente provato da questa estradizione non manca di far vedere la sua umanità, di cui andiamo tutti e tutte fiere, della nostra oltre che della sua, ma insomma sappiamo che c'è già molta determinazione nel suo sostegno. E allora io quello che vorrei fare è farvi sentire un altro brano, questa volta di hip hop sul Mapudungun, quindi sulla riappropriazione e la non avere vergogna di imparare a parlare la propria lingua. Quindi un bellissimo gruppo di donne e uomini giovani Mapuche, intanto che ve lo mando chiamo la mia compagna e continueremo a parlare di questa cosa, perché non bisogna dimenticare che il vertice più grande di questo, l'occhio che sta nel triangolo in questo caso, non è nient'altro che della famiglia Benetton, che è stata un po' colei che col suo grande potere economico ha fatto le pressioni più infami, nascosta dietro il sipario, ha spinto questi due vili attori, Macri, la Bachelet e Piñera, ha fatto pressioni per cui tutto questo accadesse. E quando dico tutto questo parlo che accadesse il primo arresto di Facundo, che sparisse il corpo di Santiago, che venisse sparato Raffael Nahuel. Le mani di Benetton sono sporche molto prima della Liguria, molto prima di Genova, del sangue mapuche, e non solo, perché probabilmente, andandoci a fare un giro, credo che anche in Africa il signor Benetton abbia le mani in pasta sporche di sangue e di petrolio. Detto questo, io vi mando un altro piccolo brano, giusto per il tempo di formare il numero di telefono, e la prossima mezz'ora la useremo per farvi salire un po' di sano veleno a tutte e tutti. Fai muta llegó en oal, inchindo un que in il to fue el mapa un buen meo. Fai muta fai un rume ya mi ne chene. Sakin viene ta in que un sakin ye ken ye ma puchen en. Ta in tu culpa y el inchinta en huecha fui en. Pupilio cuño tu mal que in huecha que tu mumeo. La buen mule o en tu le cume la buen el ueneo. Mayum cle que in tu fachi que mun meo. Ma pudungun a lunga gaita in piljuna guan tu alma pudungun meo. Guanto gaita in piu que fe la laña español me huecha. Chica che mu fa muachi duarto al cui fica c'hai tu una punto e cu chica papà e cu chica chacha e che mani. Va bene, allora io così, perché sto pezzo mi piace un sacco, perché fomenta molto l'hip hop, e poi questo video è bellissimo, tra l'altro vi consiglio di andarlo a vedere. E allora, ciao Geraldine, eccoti, come stai? Ciao Marta, qua, se sopravvive. Se sopravvive? Se sopravvive. Sì, infatti, appunto, tra l'altro non so se l'ho detto, perché poi oggi c'ho un veleno che mi acceca, appunto, mi impappino, che abbiamo ricevuto appunto questa fantastica notizia che ci ha abbastanza arrivata un po' come una botta della estradizione, quando non smettevamo di sconvolgerci degli attacchi alla memoria dell'11 settembre, del golpe cileno, del trattamento dei, della memoria, insomma, dei cortei che ci sono stati, non è la prima volta che si reprimono, ma insomma nell'era di Piñera niente è per caso. E allora dicevo, era proprio l'11 settembre quando hanno portato via per l'estradizione Facundo. È un caso? La prima domanda che mi viene quasi automatica. Sicuramente non è un caso, siamo sicuri, è una provocazione, è una burla di questi governi fascisti, già sia in Argentina, già sia in Cile, perché sicuramente questo operativo già era stato concordato, già era stato organizzato prima, perché non è che tu arrivi l'11 settembre a fare tutto questo mega operativo, no? Per trasladare Facundo dal Cile, dall'Argentina in Cile. E come l'11 settembre non porta bene per nessuno, come dice anche il compagno Rubén Coggio, che anche lui si trova in questo momento qua alla ONU. 11 settembre, il giorno che lui è venuto per forza come una delle ultime istanze anche per chiedere giustizia per Macarena Maldés, un altro caso in territorio mapuche di una compagna assassinata della violenza capitalista, la stessa violenza che sta attaccando la resistenza mapuche per difendere questi territori. Quindi per noi ovviamente non è casuale che hanno scelto questo giorno. In un momento che nessuno se lo aspettava che succedesse, perché come hai detto prima te, si voleva credere, anche se in tanti sinceramente, come hai detto prima anche te, sulla ONU non è che versiamo grandi aspettative, era come ricorrere alle ultime istanze per evitare questa estradizione illegale, arbitraria e costituzionale che Macri ha firmato, anche se c'erano tutte le motivazioni che dimostravano i diversi processi irregolari che ha svolto il lonco Facundo e tutte tutte le mancanze di prove in contro, perché si tratta di una condanna arbitraria. Ripetiamo che ricordiamo che per un caso che lui già che lui era stato partecipe in Cile nel 2013 nel caso Pisupisue nella comunità mapuche di Pilmaiken, e che lui nel 2016 era stato fermato in Argentina, dove anche si aveva chiesto questa estradizione, e per la quale lui è stato incarcerato, è stato processato, è stato assolto e liberato, annullando questa richiesta già nel 2016. Quindi oggi ci troviamo a lottare contro la corruzione, contro lo schifo del potere giudiziale cileno e argentino, perché costituzionalmente non c'erano né legalmente c'erano le motivazioni per portare avanti questa tradizione. Quindi sappiamo bene che le motivazioni sono politiche, sono razziste e soprattutto sono economiche, perché Facundo, che è l'onco di questa comunità, è un referente politico e chi porta la lotta per il recupero territoriale contro Benetton, che da anni occupa questi territori, ha fatto usurpazione attraverso la violenza, della repressione, di tutte le forze poliziali che lo accompagnano, già sia le forze poliziali private, già sia le forze private dello Stato argentino. E sappiamo che sono solo queste le motivazioni, perché lo vogliono proprio fuori dei loro interessi, dei loro profitti, che così loro continuano a portare avanti questo falso progresso per riempirsi le tasche di soldi di sangue innocente. Tra l'altro Piñera non ha mancato di dire cosa vuole fare rimettendo mano alla legge terrorismo, no? La vuole inasprire, vuole proprio già sta preparando, no? L'operazione per aumentare, ha comprato mezzi militari da mandare contro questi enormi terroristi mapuche che sembrano armati come inox fino ai denti. Insomma, non ha fatto gli sconti a nessuno su quello che vuole fare nella sua in quella che lui sostiene essere una guerra contro i Mapuche, laddove appunto i tank si scontrano con pietre e sassi, ecco, e bastoni. Beh, sì, ma non solo Piñera, perché Piñera, diciamo, che porta si trova dei compiti già iniziati. Sì, Piñera porta il buon insegnamento del suo padre politico, che è Pinochet, e lui sempre lo ha detto, ma anche negli altri pseudo governi democratici dopo Pinochet, soprattutto nel governo della socialista Bachelet, e anche lei aveva acquistato, ha fatto investimento milionari nell'acquisto di blindati e di armamento israeliano per attaccare le reprimere le comunità mapuche. Senti, adesso Piñera anche lui non ha risparmiato su questo, e neanche ha risparmiato sulla legge antiterrorista che è stata fatta e è stata lasciata dal 1984 in tempi della dittatura. Quindi oggi questo è il grande problema, lo abbiamo detto tante volte, è la legge antiterrorista che in Cile continua a criminalizzare a chi lotta in difesa del territorio. Che questa è la problematica che anche dovrà affrontare il compagno Facundo, che il sistema carcerario ovviamente in Cile è molto più duro, parliamo di torture, parliamo di maltrattamenti fisici e anche psicologici. Sì, infatti di questo ti volevo chiedere. Noi sappiamo che appunto nonostante il carcere argentino per delle cose nella sua infamità abbia, diciamo, dei diritti, insomma, abbiamo potuto parlarci per telefono, ha potuto svolgere alcuni riti, sappiamo che anche lì, diciamo, la repressione illegale dei secondini non è mancata, e so che questo è uno un po' dei timori più grandi che ha esternato il Lonco, no? Nella sua immensa forza e dignità, perché continua a mandare messaggi di forza, di incoraggiamento, di lotta, di anticapitalismo, di sostegno, anche con una enorme autocritica rispetto a ciò che accade nelle relazioni tra le comunità, no? Quindi devo dire una trasparenza a 360 gradi devastante, che dà un valore alle sue parole infinitamente superiore a quelle di qualsiasi leader, nonostante lui poi leader non abbia voglia di farsi definire, ma che comprende anche le difficoltà, no? Io mi ricordo le ultime parole che abbiamo tradotto prima del suo nuovo arresto e poi di questa estradizione, no? Lui parla anche di tutte le difficoltà che ci sono nelle differenze delle comunità spesso a trovare un'unione nella lotta, ma questa unione poi si trova nella misura in cui bisogna unirsi verso il nemico comune. Questo è sicuramente un concetto che noi abbiamo dimenticato, come abbiamo dimenticato tante cose, ormai siamo snaturati anche da questo punto di vista politico, credo io, perché insomma a volte vedo veramente che mettiamo davanti le nostre chiusure mentali piuttosto che l'individuazione del nemico reale e la sua aggressione, no? E quindi ecco, io credo che appunto è disarmante anche quanto anche in questo momento lui riesca a non togliere niente, a non illudere nessuno su quelle che sono le lotte mapuche, la pesantezza, il fatto che ci sia un enorme piede del nemico che vuole schiacciare loro piccoli ma forti, ma che nessuno ma che non si lasceranno schiacciare, no? Questo io credo è la cosa che forse più mette paura, questo suo continuo rilanciare, incitare alla lotta, alla resistenza. Sì, è veramente diciamo per chi segue questa lotta e per chi sostiene la lotta del popolo mapuche, penso che dovrebbe essere anche un esempio, come hai detto te, di trasparenza, di autocritica e di coerenza politica, perché ogni volta che Facundo ha detto qualcosa e dopo si comporta secondo quello che ha detto, quindi questo vuol dire che sebbene lui dobbiamo ricordare che sia per me, io la penso così, c'è l'aspetto politico, c'è l'aspetto personale. Penso che per uno che è perseguitato da quattro anni vivendo la oppressione carceraria, vivendo la oppressione vivendo la persecuzione politica, che ha fatto diverse sciopere della fame, che è stato l'arresto domiciliario, che dopo le sono stati prelevati, vivere così, penso che personalmente dobbiamo capire che è una persona di una forza e di una determinazione grandissima, perché politicamente sì, tu porti avanti una lotta e lui continua a rivelarsi a questi sistemi capitalisti, al sistema dei poteri dello Stato, perché continua a ripetere che la terra come la dignità non si vende, e che non dobbiamo piegare mal la testa davanti a questi poteri corrutti che tra di loro si intendono, tra il capitalismo e lo Stato. Ma dall'altra parte c'è anche di capire un giovane, perché lui ha 32 anni, che si trova frequentemente spesso in queste situazioni, che ci potrebbe anche essere, diciamo, una certa debolezza, di dire fino a quando, no? Fino a quando devo supportare questo, fino a quando io ce la faccio. E invece lui in ogni situazione, diciamo, tra il dolore che può sentire, tra le mancanze di affetto della sua famiglia, perché anche tutte queste cose sono anche di mettere dentro della situazione politica che lui affronta, e comunque lui va avanti e continua a lottare e chiamando il suo popolo a fare lo stesso, no? E come dice te, a ricordare che lo nemico è lo stesso, e che ci dobbiamo unire al di là delle differenze, delle dinamiche che anche lui stesso a volte non approva sulle altre comunità mapuche. Però ricordando che l'enemico, questo, ricordiamo che la lotta al popolo mapuche è una lotta anticapitalista, quindi al di là, a parte l'Stato, c'è anche ci sono tutte queste multinazionali che vengono in territorio mapuche con questi mega proiettili a devastare la terra e anche, diciamo, a mancare di rispetto a una cultura ancestrale che loro hanno da sempre. In questo momento lui è il carcere di Valdivia, che è un carcere infatti ti volevo chiedere, perché so che esatto, è un carcere di massima sicurezza, infatti. Sì, è un carcere di massima sicurezza. Stavo cercando di informarmi un po' di più, perché volevo capire se tutto il sistema carcerario in Cile è uguale o solamente nel carcere di massima sicurezza, perché lui adesso avrà difficoltà anche delle visite, di tutto quello che aveva più apertamente in Argentina, trovandosi in un carcere di alta sicurezza, sicuramente avrà delle visite ridotto come persone, ridotto anche come orarie, e tante altre regole che sono comprese anche dentro della legge antiterrorista, cioè che Facundo, come altri compagni e compagne che lottano, sono considerati del governo cileno terroristi. E quindi anche questa sarà una problematica per la famiglia, per la comunità, per andare a trovarlo, per andare a visitarlo. E ieri è stata fatta l'audienza che formalizzazione per questo caso, che diciamo che sarà processato per lo stesso caso del caso Pistoia, che aveva già affrontato e, come dicevo prima, era stato già assolto, perché anche gli altri compagni e compagne di quel caso lì sono stati già assolti. Tutti, quindi è assurdo veramente, è illegale quello che stanno facendo. Ho letto da qualche parte anche che forse l'ONCO ha iniziato uno sciopero della fame? Sì, volevo dire queste due cose, che l'udienza comincerà il 4 dicembre. Mamma mia. E poi che lui il giorno stesso, di quello che so, quando è stato prelevato del carcere di Schiel, ha cominciato lo sciopero della fame secca, in protesta alla decisione della tradizione, e soprattutto in protesta al procedimento del governo di Macri, che alla fine ha firmato questa maledetta tradizione che non aveva nessun senso legale, perché i fatti non sussistono. E adesso noi stiamo cercando da qua, insieme ai compagni e compagne che sono in Cile, in Santiago, a Valdivia, di creare queste reti solidarie, perché ci sarà tanto da fare nell'aspetto giudiziario, nell'aspetto carcerario e anche nell'aspetto umano, insisto, perché sono anni che lui viene perseguitato e quindi qua il responsabile di questa persecuzione, perché questo è un massacro giudiziale che stanno facendo contro lui, che non solo Macri, che non c'è solamente Piñera, non c'è solamente Bachelet, ma soprattutto c'è anche Benetton. perché se Veneto non fosse arrivato a usurpare e occupare questo territorio con la violenza che lo ha fatto durante tutti questi anni, sicuramente tutta questa problematica non si sarebbe mai creata. Quindi noi, essendo qua in Italia, chiamiamo e stiamo anche insistendo a creare coscienza sulla gente comune, la gente come noi. Abbiamo visto già cosa è successo domani, un mese della tragedia del ponte di Genova, che anche lì c'è il nome di Benetton nella concessione delle autostrade. E il nome del suo profitto, cosa non ha fatto. Esattamente, e poi la stessa responsabilità. Dobbiamo capire che loro stanno arrivando a uccidere le persone in nome del profitto, così come hanno ucciso Santiago Maldonado, così come hanno ucciso Rafael Nahuel, così come Facundo continua a sbattere da un carcere all'altro illegalmente, solamente per una persecuzione politica che, come si dice, interviene sull'interesse della multinazionale Benetton. Quindi la gente in Italia penso che è il momento che si sveglie e capire che tutti questi soldi, che qualcuno mi diceva ma le autostrade non le possiamo evitare perché comunque dobbiamo passare per le autostrade, no? Sì, ma ci sono altri modi, no? Non andare a comprare a Veneto i vestiti sporchi di sangue, non fermarti all'autogrill, che anche sono in concessione loro. Che pure i panini di casa sono tanto più buoni. Come? Che i panini di casa sono tanto più buoni. Ah, sì, anche, ma soprattutto pensare, metterti in testa che sui minimi gesti possiamo fare tanto e dobbiamo anche denunciare e dobbiamo anche prendere coscienza che questo che è successo a Genova non è un caso. Io continuo a chiedermi, lo so che tutti questi poteri che compano con i soldi la chiamata giustizia, no? Però intanto che Facundo, 4 anni che è incarcerato dal Cile all'Argentina, io mi chiedo chi le sbatta in galera questo criminale, nessuno. Ma nonostante tutto vogliamo far capire che noi continueremo a contribuire in qualsiasi modo alla libertà di Facundo. E sostegno alla comunità di Cusame, che è la comunità mapuche che sta lottando contro questa occupazione, contro questa violenza che loro affrontano quotidianamente, già che sono minacciati, già che ci sono delle eruzioni da parte della polizia di Benetton, e pensare che quello che sta succedendo adesso in Italia, che sta avvenendo adesso in Italia, succeda già da anni in territorio mapuche. Ma questo non toglie che dobbiamo essere indifferenti, perché siamo di una parte del mondo, perché alla fine questa violenza che sta giocando sulle nostre vite alla fine ci tocca a tutte. Sì, potrebbe essere anche una presa di coscienza del fatto che quello che è accaduto qui fa esplodere una bolla che ci porta fino in Cile, in Argentina, che ci sveglia, che ci fa capire che effettivamente siamo vittime degli stessi padroni, degli stessi grandi paperon dei paperoni, no? Come dicevamo prima, di persone che si inginocchierebbero davanti ai soldi e non davanti alla vita umana. Quindi capire che Benetton è colpevole qui tanto quanto lì, e che quindi noi possiamo essere uniti come mondo dal basso, ognuno con la sua differenza nel basso, perché noi rimarremo sempre dei privilegiati sicuramente rispetto alle comunità mapuche, ma questo ci deve far scoprire quanto la nostra mancanza di conoscenza può diventare non solo una presa di coscienza ma anche un'assunzione di responsabilità, di solidarietà, di internazionalismo. Nessuno chiede che, svegliandosi su quello che è successo con Genova, poi tutti si vada a fare campagne di lotta nel World Map, no? Nessuno chiede questo, ma l'integrità, la dignità di capire che il proprio nemico va molto più là di casa nostra, e di riuscire a sentire le vittime lontane come le vittime nostre, perché comunque la mano infame è sempre quella. Sì, no, esattamente quello è il messaggio, no? Cominciare un po' a togliere le coscienze, che perché quando noi parlavamo del popolo mapuche, di Benetton, che perpetrava tutte queste violenze, diciamo che o qualcuno ti guardava male o qualcuno proprio neanche interessava. E adesso io spero sinceramente, a livello politico e umano, che la gente cominci anche a lottare contro queste contro questo multinazionale che portano solo danni in tutti i sensi della parola. E l'altra cosa che volevo aggiungere è che due settimane fa, perché dobbiamo anche dire che Facundo in questo momento è in carcere, in questo momento, più di un anno, sono un anno, due, tre mesi, in questo momento lui si trova per una causa, per quello in Cile, per la causa del caso Piso Pisue che era successo lì nel 2013-2014. Però vorrei dire che anche due settimane fa c'è stata la seconda udienza, ecco. Perché Benetton, la multinazionale Benetton ha fatto causa alla comunità Mapuche del Cusamen per usurpazioni per avvigliato. Quindi diciamo che un'altra causa che dovrà affrontare il nostro compagno Mapuche Facundo insieme a altri integranti della comunità, e in questa seconda udienza, dopo una settimana, è venuto fuori che il giudice di quella causa ha deciso di aprire un processo contro la comunità, quindi dicendo che c'erano abbastanza prove che meritavano di avere un percorso legale e di aprire un processo per richiesta della multinazionale Benetton. Quindi direi che insomma, appunto, i legami da fare sono parecchi, tra l'altro sì, insomma, appunto, da qua a dicembre può un po' succedere di tutto, no? Immagino che dicembre è stato scelto anche per permettere di fare una costruzione ad hoc di quello che accadrà poi in sede di giudizio, no? Sì, c'è di tutto, perché abbiamo il compagno Mapuche Facundo che è in Cile, dall'altra parte Benetton si è aperto un altro processo in Argentina per usurpazioni per avvigliato, che io non so se ridere o piangere, perché Benetton che accusa i Mapuche di usurpazione veramente non ha senso, è vergognoso, ma loro ovviamente per loro non hanno vergogna, così come l'hanno concessa. E l'altra parte abbiamo il processo dei due compagni Mapuche, che poi sono quelli che quando è stato assassinato Rafael Nahuel, con quelli che hanno preso il corpo di Rafael Nahuel, che era stato appena assassinato alle spalle della polizia argentina, lo prendono, lo portano giù, che così lo fanno vedere che non stava bene, ormai era morto, anche per assicurarsi che il corpo non fosse un altro desaparecido come Santiago. E invece oggi questi due compagni sono accusati dell'assassinato di Rafael. Quindi e diciamo che uno è il fratello di Facundo, no? Uno è il fratello di Facundo che credo che in clandestinità, perché è veramente assurdo tanta persecuzione, è evidente la persecuzione politica che hanno contro il popolo Mapuche. Chi veramente ha sparato a Rafael Nahuel è stato chiamato a dichiarare dopo diversi mesi, 4 mesi dopo mi pare, e lo hanno ascoltato, è stato liberato. E ha solo diciamo esposto solamente fatto dichiarazione di quello che è successo lì, e invece si era un Mapuche, come succede sempre, e si danno subito l'arresto cautelare, non la prigione cautelare. A lui niente, lui continua libero. Se sta bene chi ha sparato a Rafael della polizia argentina, e quindi la giustizia, come dicono loro, la giustizia winca, che è la giustizia dell'invasore, no? Del capitalista, del Stato, vale solo per loro, per il resto non vale niente, perché in questo momento sono immersi di processi giudiziali per tutta questa lotta che portano avanti contro la multinazionale Benetton. E sembra che lottiamo contro un muro, perché dall'altra parte sappiamo bene che c'è un potere giudiziale che non solo è parte del governo, è anche parte delle multinazionali, amici degli amici, politici, soldi, anche l'odio razzista, la fama anti-mapuche di tanti giudici. E quindi la situazione è questa, già sia in Argentina, già sia in Cile, e la nostra, tra le tante preoccupazioni politiche che abbiamo per sostenere il popolo Mapuche, diciamo che la situazione carceraria di Facundo è quella più grave in questo momento, perché sembra che non usciamo mai di una situazione che chiaramente no sussiste, legalmente non sussiste, invece loro stanno abusando del loro potere per fare quello che vogliono con questo compagno. Però nonostante tutto abbiamo detto che la lotta continua, non sarà, abbiamo perso una battaglia, no? Però no, non la lotta completamente. No, no. Facundo deve sentire che siamo con lui e che come Santiago siamo fieri della lotta che porta avanti e che siamo solidali e la nostra solidarietà internazionalista andrà avanti fino all'ultimo, fino alla libertà, perché la libertà si difende e la libertà ci appartiene come esseri umani e come luchadores e come luchadoras che siamo. Sì, infatti questo non ce lo leva nessuno, ecco, insomma, credo che l'esempio che ci dà Facundo e le comunità che resistono sia abbastanza unico. Allora io ti ringrazio ancora, Geraldine, dai, coraggio, mi raccomando, e ti abbraccio forte, so che non ti fermi mai giorno e notte per questa cosa e insomma le tue parole specchiano chi sei, insomma, direi che nessuno può mettere bocca su questo, non solo te, ma insomma parlerei anche della tua famiglia, insomma, che fa un lavoro unico. E allora io ti abbraccio forte, noi comunque ci sentiremo perché presto appunto parleremo anche di Ruben Collio, che già è in Europa per fare, bravo, insomma, questa gira, e riusciremo poi in qualche modo a fargli un'intervista. Io come sempre ti abbraccio e insomma chissà, il nostro messaggio da andare a Facundo è che non è solo, anche da questa parte siamo con lui, lo sosteniamo e prendiamo delle grandissime lezioni di resistenza e dignità politica. Io ringrazio te per le tue parole, come compagno e come amica che sei, e sì, tra poco arriverà anche il compagno Ruben Collio, che è l'altro caso della compagniera Mapuche che è stata assassinata 2 anni fa, quindi ci vedremo sicuramente. Sì, sì. E niente, lo sai, con Facundo fino alla libertà, perché la terra come la dignità non si vende, quindi neanche la nostra solidità, la nostra lotta non la venderemo mai, né a Veneto né a nessuna multinazionale capitalista. Mari Ciueo, Geraldine. Mari Ciueo, Facundo libero. A voglia, questo ricordiamocelo, scriviamolo ovunque. Ti abbraccio forte. Ciao bella. Ciao tu mai. Insomma, ecco, sentire raccontare queste cose da una cilena che ha sicuramente un polso diverso, che conosce le comunità, lo preferisco sempre a dover essere la Winca che riporta le parole di altri. E allora io direi che per oggi chiudiamo qua. Io come sempre ringrazio Mariano che tornerà a farci compagnia, si apre quest'altra grande stagione di lotte, eh? Cominciamo da lontano per arrivare qua vicino. E allora come sempre io vi manderò adesso lo spot che ancora non abbiamo mandato della Sagra del Peperoncino, che si terrà il 30 settembre come al solito, quindi cominciate a fomentarvi, e poi vi saluto da giovedì prossimo come sempre con un abbraccio particolare a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà.